Una figura alta, con un vestito di lana villosa tessuta a mano, si levò dall'ombra e svelò il suo oriolo cooperativo. Credo che mi aspettino all'Hampstead. Dove te vai? Terreno sfruttabile. Se ne va? Chiesero le attive sopracciglia di John Eglinton. Ci si vede da Moore stasera. Viene Piper. Piper? Pifferò Mr. Best. Piper anche campa? Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Non so se potrò. È giovedì. Abbiamo il nostro raduno. Se posso venir via in tempo. Scatola sorpresa del Babau Yogi nelle stanze di Dawson. Iside disvelata. Quel loro libro pali che cercammo di dare al Monte di Pietà. A gambe incrociate, sotto l'ombra dell'ombrellone, troneggia il logos azzeco, funzionante sui piani astrali. La loro superanima, Mama Atma. I fedeli ermetisti attendono la luce, maturi per Kela, anello a lui d'intorno. Lois H. Victory, T. Caulfield Irving. Le signore del loto si offrono ai loro occhi, collegando le pineali incandescenti. Pieno del suo Dio troneggia Buddha sotto il banano. Vorticatore di anime, travolgitore. Animi, anime, armenti di anime. Travolti in dogliosi lagni, in vortici avvolti, vorticosi, si lagnano. In quintessenzial volgaritate per anni ed anni un femminile spirito in quest'urna di carne ebbe dimora. Si dice che avremo una sorpresa letteraria, disse il bibliotecario quacchero, amichevole e serio. Mister Russell, secondo le voci, sta mettendo insieme un mannello di versi dei nostri giovani poeti. Siamo tutti ansiosamente in attesa. Ansiosamente guardò nel cono di luce in cui tre visi illuminati brillavano. Guarda questo, ricorda. Steven dette un'occhiata all'ampio cappello a cefalo infilato nel manico della canna di frassino sulle sue ginocchia. Il mio casco e la mia spada. Tocca lievemente con i due indici, l'esperimento di Aristotele. Uno o due. La necessità è ciò in virtù di cui è impossibile che una cosa sia un'altra. Argal, un cappello è un cappello. Ascolta. Il giovane Callum e Starkey. George Roberts si occupa della parte commerciale. Langwaff gli batterà la gran cassa sull'Express. Ma lo farà poi. Mi è piaciuto Drover di Column. Sì, credo che abbia quella strana cosa che si chiama genio. Credete che abbia veramente del genio? Yeats ammirava quel suo verso come in terra selvaggia un vaso greco. Lo ammirava poi davvero? Spero che potrete venire stasera. Viene anche Malachi Mulligan. Moore gli ha chiesto di portare Heinz. Avete sentito la barzelletta di Miss Mitchell su Moore e Martin? Che Moore è la cavallina corsa da Martin? Azzeccata, non è vero? Fanno pensare a Don Chisciotte e Sancho Panza. La nostra epopea nazionale è ancora da scrivere, dice il dottor Sigerson. Moore è l'uomo che ci vuole, un cavaliere dalla triste figura qui a Dublino. Col gonnellino color zafferano. O'Neill Russell. Ah, sì, dovrà parlare la grande vecchia lingua. E la sua Dulcinea? James Stevens fa dei bei bozzetti. Stiamo diventando importanti, sembra. Cordelia. Cordoglio. La più sola tra le figlie di Lear. Con le spalle al muro. Ora la tua migliore patina francese. Grazie infinite, Mr. Russell, disse Steven alzandosi. Se vuole essere così gentile da dare la lettera a Mr. Norman. Sì, certo. Se la considera importante, la stamperà. Abbiamo tanta corrispondenza. Capisco, disse Steven. Grazie. Dio ti renda merito. Il giornale dei porci. Bazzica bovi. Sam mi ha anche promesso un articolo per Dana. Stiamo per essere letti? Prevedo di sì. La Lega Gaelica vuole qualcosa in irlandese. Spero che farete una capatina stasera. Portate Starkey. Steven sedette. Il bibliotecario quacchero si staccò da quelli che prendevano congedo. Imporporandosi la sua maschera, disse: Mister Dedalus, le sue opinioni sono estremamente illuminanti. Scricchiolò su e giù in punta di piedi, avvicinandosi al cielo di uno zoccolo, e, coperto dal rumore degli uscenti, disse piano: «La sua opinione, allora, è che essa non fu fedele al poeta?» Un viso sgomento mi interroga. «Perché è venuto? Cortesia o luce interiore?» «Dove c'è una riconciliazione», disse Steven, «ci deve essere stata prima una rottura». «Già! Volpe Cristo in brache di cuoio, nascosto, un fuggiasco tra i rami di un albero rinsecchito davanti alla canea. Non conosce volpi femmine, cammina solo in mezzo ai cacciatori. Donne che conquistò, persone di cuore tenero, una meretrice di Babilonia, mogli di giudici, spose di rozzi tavernieri, la volpe e le oche. E alla casa di New Place un corpo avvizzito e disonorato, che una volta era avvenente, bello e fresco come il cinnamomo. Ora invece le cadono le foglie, tutte, ed è nuda, nel terrore dell'angusta fossa, e imperdonata. Già, allora lei crede. La porta si chiuse dietro all'uscente. La quiete possedette d'un tratto la discreta cella avvolta, quiete di un'atmosfera calda e meditativa, una lampada di vestale. Qui egli pondera su cose che non furono, ciò che Cesare vivo sarebbe giunto a fare se avesse creduto all'indovino, ciò che avrebbe potuto essere, possibilità del possibile come possibile, cose non note, che nome aveva Achille quando viveva tra le donne. Pensieri chiusi in bari attorno a me, in casse da mummie, imbalsamati con aromi di parole. Tot, dio delle biblioteche, un dio uccello, l'unico ornato. E io sentii la voce di quel gran sacerdote egiziano, in camere dipinte piene di libri di laterizio. Sono immobili, una volta vivi nei cervelli degli uomini. Immobili, ma un prurito di morte è in loro. Di mormorarmi all'orecchio un racconto zuccheroso, spingermi a realizzare le loro voglie. Certamente, meditava John Eglinton, tra tutti i grandi uomini è il più enigmatico. Non sappiamo altro se non che ha vissuto e sofferto, neppure tanto. Altri sono scettici. Un'ombra si stende su tutto il resto. Ma l'Amleto è tanto personale, non è vero? Piatì Mr. Best. Voglio dire, è una specie di documento privato, sapete, della sua vita privata. Voglio dire che non mi importa un fico secco, sapete, di chi è ucciso o di chi sia colpevole. Posò un libro innocente sull'orlo del banco, sorridendo con aria di sfida. I suoi documenti privati nell'originale. Tar bad ar antir. Time in mo shagat. Mettici un po' d'inglese, John Bullino. E dice John Bullino Eglinton: «Dopo quello che ci ha detto Malachi Mulligan, ero preparato a dei paradossi, ma l'avverto subito che se vuole scuotere la mia fede che Shakespeare sia Amleto, avrà un compito duro davanti a lei. Siate pazienti con me». Steven resistette al tosco di occhi increduli, balenanti, crudelmente sottociglia aggrondate. «Un basilisco. E quando vede l'uomo, l'attosca. Messer Brunetto, grazie del suggerimento. Come noi, oppure la madre Dana, intessiamo e disintessiamo i nostri corpi», disse Steven, «di giorno in giorno, le loro molecole su e giù come una spola. Così l'artista intesse e disintesse la sua immagine. E come il neo sulla mia mammella destra è dove era quando son nato, benché il mio corpo sia stato intessuto di materiale nuovo a più riprese, così, attraverso lo spettro del padre inquieto, fa capolino l'immagine del figlio non vivente. Nell'istante intenso dell'immaginazione, quando lo spirito, dice Shelley, è un carbone vicino a spegnersi, ciò che io ero è ciò che io sono, è ciò che in potenza potrò divenire. Così nel futuro, fratello del passato, io posso vedermi, quale siedo qui, ora, solamente per il riflesso di ciò che allora sarò. Drummond of Ottenden ti ha aiutato a questo passo. Sì, disse giovanilmente Mr. Best. Io Amleto lo sento senz'altro come un giovane. L'amarezza gli potrebbe venire dal padre, ma i brani di Ofelia sono sicuramente del figlio. Che cantonata! Egli è mio padre, io sono il suo figlio. Quel neo è l'ultimo ad andarsene, disse Steven ridendo. John Eglinton fece una smorfia per niente gradevole. Se questo fosse il segno del genio, disse, di geni sarebbe saturo il mercato. Nei drammi degli ultimi anni di Shakespeare, che Renan ammirava tanto, spira un altro spirito. Lo spirito di riconciliazione, spirò il bibliotecario quacchero. Non può esservi riconciliazione, disse Steven, se non c'è stata una rottura. Già detto. Se volete sapere quali siano gli avvenimenti che hanno gettato la loro ombra sull'inferno del tempo di Re Lear, Otello, Amleto, Troilo e Cressida, cercate di vedere come e quando quell'ombra si dissipi, che cosa ammansisce il cuore di un uomo. Naufrago in turbine d'Iro, misero Ulisse novello, Pericle, prence di Tiro. Testa, cappuccio rosso a cono, sballottato, accecato di salsedine. Un infante, una bambina deposta tra le sue braccia, Marina. La propensione dei sofisti per i viottoli degli apocrifi è una quantità costante, scoprì John Eglinton. Le strade maestre sono monotone, ma portano alla città. Buon Bacon, ammuffito. Shakespeare come cavallina da corsa di Bacon. I giocolieri enigmisti vanno per le strade maestre, cercatori nella grande esplorazione. Che città, messeri! Mascherati nei nomi. A.E. Eone, Maggie, John Eglinton, a oriente del sole, a occidente della luna, Tir na n'og, calzati a mendue e col bordone. Quante miglia per Dublino? 70, mio signore. Ci saremo all'imbrunire? Mr. Brance lo considera, disse Steven, il primo dramma della fase conclusiva. Davvero? E che ne dice Mr. Sidney Lee? O Mr. Simon Lazarus, come molti asseverano si chiami. Marina, disse Steven, figlia della tempesta. Miranda, una meraviglia. Perdita, colei che fu perduta. Ciò che fu perduto gli vien reso, la bambina di sua figlia. La mia diletta moglie, dice Pericle, era come questa fanciulla. Si può amare la figlia se non si è amata la madre. L'arte di essere nonno. Mr. Best prese a mormorare. L'art d'être grand. Non vedrà rinata in lei, con il ricordo aggiunto della propria gioventù, un'altra immagine. Sai di che cosa stai parlando? L'amore, sì, la parola nota a tutti gli uomini. Amor vero aliquid aliqui bonum vult unde et ea quae concupiscimus. La propria immagine per un uomo che abbia quella strana cosa che è il genio è la misura di ogni esperienza, materiale e morale. Un simile richiamo lo commuoverà. Le immagini di altri maschi del suo sangue lo respingeranno. Vedrà in essi grotteschi tentativi della natura di predire o ripetere lui. La benigna fronte del bibliotecario quacchero si accese rosiamente di speranza. Spero che Mister Dedalus svilupperà la sua teoria per illuminare il pubblico. E dovremmo menzionare un altro commentatore irlandese, Mister George Bernard Shaw. Né dovremmo dimenticare Mister Frank Harris. I suoi articoli su Shakespeare nella Saturday Review erano senza dubbio brillanti. Curiosamente, anch'egli ci dipinge un'infelice relazione con la dama bruna dei sonetti. Il rivale favorito è William Herbert, conte di Pembroke. Confesso che se il poeta dovesse essere respinto, questa ripulsa sembrerebbe più in armonia con, come dire, con la nostra nozione di ciò che non avrebbe dovuto essere. Felicemente smise e chinò una mite testa tra loro, un nuovo dalce, premio alla loro rissa. Le dà del tu solenne, con gravi parole maritali. Ami tu dunque, Miriam, ami tu il tuo sposo. Può anche essere, disse Steven. C'è un detto di Goethe che Mr. McGee ama citare. Guardati da ciò che desideri in gioventù, perché lo otterrai nella maturità. Perché manda da una che è una buona roba, una cavallina su cui tutti montano, una dama d'onore dalla giovinezza scandalosa, un signorotto a far la corte invece sua. Lui era un signore della lingua e aveva fatto di sé un paggio gentiluomo e aveva scritto Romeo e Giulietta. Perché? La fede in se stesso è stata prematuramente uccisa. È stato sopraffatto dapprima in un campo di grano, di segala direi, e non potrà più essere vittorioso di fronte a se stesso, né giocare vittoriosamente a Metti e Leva. Un don giovannismo ostentato non lo salverà mai. Nessun ulteriore disfacimento disfarà una prima disfatta. La zanna del cinghiale lo ha ferito dove amor giace sanguinante. Se anche la bisbetica ha la peggio, pur le rimane l'invisibile arma della donna. C'è, lo sento nelle sue parole, qualche stimolo della carne che lo spinge a una nuova passione, un'ombra più scura della prima, che oscura anche la sua comprensione di se stesso. Un simile fato lo attende, e le due furie si fondono in un gorgo. Ascoltano, e nei padiglioni dei loro orecchi io verso. L'anima è stata dapprima colpita a morte, un veleno versato nel padiglione di un orecchio dormiente. Ma quei che sono incisi nel sonno non possono sapere come sono spenti, a meno che il Creatore non doti le anime loro di tal conoscenza nella vita a venire. L'avvelenamento e la bestia con due dorsi che ne fu causa, lo spettro del re Amleto certo non poteva conoscerli se non fosse stato dotato di conoscenza dal suo Creatore. È questa la ragione per cui il discorso, la sua anglica favella disamena, è sempre rivolto altrove, all'indietro. Violentatore e violentato, quel che voleva e non voleva, va con lui dai globi e burnei di Lucrezia cerchiati d'azzurro al petto di Imogene, nudo, con il suo neo dalle cinque macchie. Egli torna indietro, stanco della creazione che ha innalzato per nascondere sé a se stesso, vecchio cane che lecca una vecchia piaga. Ma poiché la perdita è il suo guadagno, egli passa all'eternità con una personalità per nulla sminuita, senza aver niente appreso dalla saggezza che egli ha scritta o dalle leggi che egli ha rivelate. La sua visiera è alzata. È uno spettro ora, un'ombra, il vento tra le rocce di Elsinore, o quel che vi garba, la voce del mare, una voce udita solo nel cuore di colui che è la sostanza della sua ombra, il figlio consustanziale con il padre. Amen! Si fece eco dalla soglia.